Momenti speciali è un linguaggio che ha un po' più di metafore, perché in realtà lo parliamo in molti ed è piuttosto semplice. Vabbè, tanto mia moglie parla questo linguaggio e io l'ho scoperto dopo un po' di tempo, perché in verità io dopo qualche piccola marachella immaginavo di chiudere, di uscire da certe situazioni un po' così difficili, magari col solito mazzo di fiori, no? E poi lei, dopo un certo numero di anni, mi ha finalmente detto: guarda che a me i fiori non mi fanno proprio nessun effetto, anzi, mi dà pure fastidio che tu ti presenti col mazzo di fiori, perché penso che spendi un sacco di soldi e a me i fiori proprio non mi piacciono. Mi piacerebbe molto di più, mi sentiresti molto più amata se tu passassi dei momenti insieme a me, se condividessi delle situazioni familiari o nostre, intime, personali, insieme io e te, che non significa stare seduti sullo stesso divano, vicini fisicamente, magari guardando la televisione, significa dandosi reciproco attenzione, reciproco ascolto, guardandosi negli occhi, quello che facevamo da fidanzati. Quando eravamo fidanzati, andavamo in pizzeria, ci guardavamo negli occhi, nel pub, no? Adesso da sposati andavamo in pizzeria e ci guardavamo attorno, fateci caso, no? È vero, ci guardiamo attorno, ci vedi qua la tenda, bella, sì, che dici, ce la mettiamo pure noi a casa fuori, sì, e quindi guarda quella come si è vestita, guarda quella, perché non ci guardiamo più negli occhi, evidentemente abbiamo perso questa intimità, così come se stiamo con nostro figlio e giochiamo con la palla, ovviamente depone male se rispondiamo al cellulare, no? Oppure l'attenzione sul pallone anziché sul nostro figlio, che ce ne facciamo di un camper se non lo utilizziamo mai, perché non mi porti domenica a quel mercatino dell'antiquariato, perché non usciamo mai insieme, perché non stiamo insieme. Quindi stare insieme significa proprio fare delle cose insieme, no? Proprio insieme, nel vero senso della parola. E è nato Stefano, il quinto figlio, all'isola di Berina, per chi conosce Roma, c'è il fiume, lo saprete tutti, il Tevere, e poi c'è quest'isola dove c'è un ospedale, e lì sono nati 4 su 5, ma comunque l'ultimo nacque lì, e lei mi disse: guarda, ci siamo, insomma, no, e io, vabbè, allora che stiamo carmi, e prendo la macchina, l'accompagno di corsa all'ospedale, vado lì, e c'era una ginecologa che era molto nature, ed è una fortuna, perché spesso e volentieri invece è il contrario, ci sono magari dei chirurghi che tendono, appunto ginecologi, ma più chirurghi che ginecologi, che tendono ad operare perché pare che dietro poi, adesso senza andare troppo in queste questioni, ma c'è pure insomma un minimo di mercato, no? Perché poi i parti cesarei insomma hanno il loro prezzo, eccetera, eccetera. Ma comunque questa, grazie a Dio, era molto orientata a un parto naturale, seppure magari ci fossero state delle complicazioni. Allora, arriviamo, cioè, senta, guardi, allora qui non ci siamo ancora, qui sono sui 3 centimetri e mezzo. Deve camminare. E andiamo. Dice: guardi, non lo so, veda lei, c'è un ospedale intero qui, cammini, perché il bambino deve scendere. Vabbè, e quindi prendo mia moglie, comincio a camminare, vado lì nel reparto, insomma, cammino nel reparto, eccetera, eccetera, mi faccio tutto il reparto, vado a vedere dove stavano le infermiere, dove c'erano i bagni, insomma, c'è, poi ritorno, dico: veda un po'. Dice: guardi, siamo sui 4 centimetri, io così non lo farei, no? No. Lei, mia moglie, fa, dice: guardi, basta che lei buca il sacco, dice, io già ne ho fatti altri, cioè, li abbiamo lasciati a casa quegli altri, se fa un po' più in fretta, dice: ma che cosa dice? Ma che stiamo scherzando? Ma guardi, abbiamo lasciato gli altri a casa, non è che potremmo mai accelerare. Ma che acceleriamo? Ma che stiamo scherzando? Oh, e questo deve nascere in maniera naturale, naturale, questo deve nascere con tutta la camicia. Proprio scende e questo va a casa da solo, così, praticamente se leva la placenta, sale da solo, magari, e va. Quindi io sono molto nature, quindi che devo fare? Cammini, cammini, deve camminare. E andiamo. Che ne so, cammini. E dico: qui abbiamo già visto. E chiede, vada da un'altra parte. Dico: c'è geriatria, se vogliamo andare solo. Cioè, sì, vabbè, andiamo solo, ci facciamo tutta la geriatria, camminiamo, dopo un'oretta e mezza, lì scendiamo sotto. Veda un po', 4 e mezzo, no, io così non lo faccio nascere, manco 5, no, no, no, no, no, guardi, deve camminare. E vabbè, dico, andiamo a Trastevere, su via della Lungara, passiamo avanti a Ginaceli, poi giriamo lì al ponte, Ponte Sisso, se facciamo il portico d'Ottavia, la sinagoga, rientriamo di qua, insomma, eccetera. Dico: guardi, allora, insomma, non va ancora alto il bambino. Dico: guardi, guardi. Dico: se lei me lo diceva, io venivo in tuta. Venivo con le scarpe da ginnastica, portava la borsa, lo shampoo, tutto. Sta paracocca c'ha due stinchi così, due borpacci, sembra già svolta. Siccome stiamo allenati per Olimpiadi, beh, mi pare una cosa esagerata. Quindi poi alla fine lo portano, la portano in sala travaglio, insomma, va lì, lei riconosce una ostetrica, la chiama di nascosto di questa ginecologa. ovviamente fa quello che dice mia moglie, il bambino nasce e questo bambino poi all'una e mezza di notte, insomma col biondo, tra virgolette, Tevere, con tutti i lampioni, l'illuminazione, c'era una scena meravigliosa, lei lo alza, questo gli restituisce un filo di bava che la colpisce in faccia, insomma una scena bellissima, eccetera, e poi lei mi manda un sms perché io per una questione così di sorte, di destino, mi sono trovato lì, cosa che non ho mai fatto prima, io sono sempre scappato, in queste, scappato nel senso stavo in una sala d'attesa, non mi va ad entrare, de fa riprese, tanti fanno le foto, per carità, rispettabilissima la cosa, ma io preferisco insomma stare da una parte, no? E lì invece mi sono trovato, non che avessi visto, però mi hanno abbardato, se non altro nel travaglio gli tenevo la mano, e lei l'ha molto apprezzato, tanto che mi ha detto in questo sms: ho molto gradito che tu mi sei stato vicino durante la nascita di Stefano, ti amo tanto, cosa che mia moglie, magistrato, mai si sognerebbe di fare, no? Non si è mai immaginata di scrivere cose, me l'ha scritta una volta sola, non è, quindi non è che sia così, però mi è rimasta molto impressa. E poi ovviamente momenti speciali ne abbiamo vissuti, quando ci siamo sposati la prima spesa, io mi ricordo la prima spesa al supermercato, che ovviamente abbiamo preso il carrello, io da grande cavaliere mi sono lanciato, insomma, no, in un seguimento con mia moglie, è andata all'ortofrutta, dice adesso ti faccio gli agretti, non so se conoscete a Milano la barba del non so che cosa viene chiamata, sono dei fili di erba lunga, cioè, che vanno fatti in umido, non so come, cioè, comunque noi li facciamo in umido dalle nostre parti, e poi vengono conditi con sale, olio e aceto, credo. E allora prende un fascio di agretti e lo mette nel carrello. Dico, oh, siamo due, dico, sarà un po' troppo. No, no, amore, no, allora tu non hai proprio capito il senso. Questo qui stringono, quando tu l'hai cotti stringono, di un fascio ne viene fuori un piatto. Anzi, piene un altro di fascio, un altro fascio. Sì, piene un altro, perché questi stringono. Due fasci, due piatti. Di che il carrello è pieno, che famo? Niente, non lo so, speriamo che basta. Ma come che basta? Che fanno? Andiamo a casa, la moto viaggi, perché io poi sono entrato con la macchina, mi sono portato il trattore, non vorrei che la gente qui poi, cioè questo c'è le pecore, come è venuto qui? Quindi dico, stiamoci attenti, io non conosco ancora nessuno, non mi vorrei far giudicare male da questa gente. No, no, insomma, alla fine usciamo fuori con quattro fasci da gretti, perché lei aveva questi rigurgiti, no? Dice, no, no, è poco, stringe, andiamo a casa, dico, scemo. E che succede? Le agretti ricrescono, se era sbagliata. Dice, no, perché tua madre mi ha detto che a te ti piacciono le agretti. Ma mia madre perché non si fa i cazzi sua? Perché già quei fagioli si era sbagliata. Quindi dico, possibile mai? E quindi ricrescono. Dei quattro fasci sono diventati 12. Ci siamo fatti i materassi, ci siamo fatti il presepe, ci siamo fatto tante piccole cose perché l'erba era veramente tanta, era aumentata. Ma qui subentrano le personalità. E c'è la personalità marmorto. Marmorto chi è? È quello che praticamente, sapete che in Israele il fiume Giordano forma il mare di Galilea e poi si butta nel Mar Morto. Il Mar Morto è un grande recipiente, un grande contenitore di acqua che non ha emissari, riceve da tutte le parti ma non restituisce nulla a nessuno, non ha emissari, no? Quindi è un grande bacino d'acqua. No? Il Mar Morto è colui che se tu ci fai un viaggio da Lodi a Pachino o a Siracusa, dove sia, un viaggio lungo, lui non dice una parola. Non dice nulla, è una spugna, assorbe, lui ascolta per 15 ore di viaggio. Tu arrivi a Pachino, apri lo sportello o butti per strada, ci sarà morto. Questo no? Invece lui ti dice no, io sono stato benissimo, ho passato la giornata più bella della mia vita, ho ascoltato, è meraviglioso viaggiare con te, è stupendo. Sì, ma tu come ti chiami? Perché io non so manco come ti chiami. Lui non ha detto nulla. E poi c'è Ruscello che mormora, mia moglie per esempio, Ruscello che mormora, è una persona che praticamente tutto ciò che ascolta e che vede neanche una frazione di secondo è già uscito dalla bocca. La parola non ha dove depositarsi, non ha un serbatoio, non ha un magazzino, non ha un riposo, niente. Vede, ascolta, parla. Vede, ascolta, parla. E quindi se non c'ha nessuno da ascoltare o da vedere, alza il citofono, oh, che passa qualcuno lì sotto, pronto, chi c'è? Oppure apre la persiana, oh, vicina di casa, senti, o sai che ho comprato, sai che ho visto, sai che mi hanno detto, e quindi deve parlare, no? Oppure parla a se stessa, parla da sola, perché deve parlare, deve dire quello che ha visto, quello che ha sentito, eccetera, eccetera. Se tu ti fai un viaggio da Roma, da Lodi a Palermo, con un ruscello che mormora, non devi preoccuparti assolutamente di quale argomento trovare, di che cosa discutere, ci pensa lei. Lei trova l'argomento, lei discute, lei fa tutto, tu non devi preoccuparti. spesso nella vita un ruscello che mormora sposa un mar morto. Ed è un idillio, una cosa meravigliosa. 7-8 anni di... è un Eldorado, una cosa veramente stupenda. Lui ascolta, lei parla e lui ascolta. È una meraviglia. Dopo 7-8 anni lei dice, chi è questo? Come si chiama? Adesso moglie chiede i documenti perché io non ho mai saputo questo come si chiama. Io voglio sapere con chi sto dentro casa. Questo è un estraneo, io mi chiamo la polizia. Perché questo chi è? E lui dice, se tu t'azzitti un attimo, se tu t'azzitti un attimo, io te lo posso dire come mi chiamo, te potrei dire tante cose, ma tu te dovresti azzittire. Quindi in realtà anche qui il contesto, la nostra personalità, il nostro carattere non sono così importanti, è vero che pure ci influenzano, ma non ci costringono ad essere così come siamo. Da un certo punto di vista il mar morto dovrebbe sforzarsi di parlare un po' di più e l'uccello che mormora di ascoltare un po' di più. Quindi in verità, insomma, ci sono delle situazioni che dipendono molto da noi, no? E come appunto successe, se a proposito di eventi speciali, io ho mio suocero che è di Reggio Calabria, io sono romano di 7 generazioni, mia moglie pure è romana con la madre, da parte della madre, ci abbiamo sto suocero a Reggio Calabria che ci ha invitato una volta, eravamo fidanzati, e disse, no, Manuela, dice, prima di sposarci devo farti conoscere i miei parenti calabresi, te li devo far conoscere perché dico sì, ma dico, penso che sia necessario a questo punto. Dico, quando ci andiamo? Dice, il giorno dell'assunta, il 15 agosto. Dico, ma che se fa lì il 15? Se magna, cioè se magna e basta, quindi non ti devo spiegare niente qual è il programma, cioè se magna e basta. Quindi tu stai lì, io mi ricordo, stavo a dormire e si sentiva di notte un traccheggiare in cucina, no? Sentivo un rumore, dico, guarda, sono venuti i ladri, stanno svaleggiando casa. Dice, no, c'è quella zia Lina, una coi baffi, insomma. Dice, zia Lina che sta facendo le polpette. Dico, ah sì, ma che inizia alle 2 di notte a fare le polpette? Dice, sì, perché queste vanno fatte bollire nel sugo, a fuoco lento, si dice, fuoco lento. Devono bollirsi nel sugo. Quando questo sugo è tutto catramato, tutto il catrame, vengono levate con degli scalpellini dal sugo e fatte friggere, perché sennò sono leggere. Quindi, vengono fatte friggere. Guarda che è vero, eh? C'è Sacchiere li butta nel sugo dopo fritte, gli va a fare doppio giro. Se te casca una polpetta di quelle, devi fare tutto il pavimento, perché cioè, quelle le usava Rambo, quei Vietcong, insomma, roba, sono armi improprie. E queste te ne toccano 15 per uno, non è che tu te mangi una polpetta di queste. Perché se tu arrivi a 10, dice, ma tuo marito ha qualcosa? Dice, no, dice, ma non sta bene. Dice, che stai bene, stai male? No, è che io 10, cioè, non me ne so mangiare, insomma. Dice, sì, però noi qui ne mangiamo tutte 15. Vabbè. Dice, vabbè, poi basta. No, poi c'è la melanzana parmigiana. E arriva 7 piani di morbidezza con dentro una maschera, i pin, cioè quello che trovano per caso buttano lì dentro. Cioè, le costruzioni da Lego, cioè c'erano i totani, io avevo capito che erano dei pescetti piccoli, no? Poi lì li riempiono di tutto, cioè ci mettono il pane, ci mettono l'ova sode, cioè, e diventano tipo delle mortadelle così. E le mettono nella melanzana della parmigiana, dentro, tutto dentro. Questa melanzana è tipo un termovalorizzatore grosso, no? Con dentro un inceneritore con tutta sta roba dentro. Sono 12 piani di morbidezza, roba di questo tipo, eh? Arriva tutto, devi mangiare 3,5 kg, no? Dice, guarda, se no dice sta male. Tua figlia. E poi la saluta, alla salauto, dice di chi? Dice, la tua, ah sì, no, alla tua, no, alla tua, e tanto... devi bere, e ogni volta che c'ha la salute devi bere, quindi se sono 15, 20, 30 persone e ognuno dice alla salute, sono 20, 30 bicchieri di vino, e se tu non bevi, dice, guarda che si offendono, cazzo, non la faccio più. Quindi poi a un certo punto stavamo lì, gli ombelichi si erano talmente dilatati che sembravano dei tombini, questi sono sul marciapiede, no? E c'avevamo queste pelli di panza tirate come pelli di tamburo, tanto che il sole rifletteva dal mare e riandava verso una scena meravigliosa. È arrivato Piero Angela, dicevo, e qui che c'è stato? C'è una diaspora di trichechi che si spostano, guardate, sono dei trichechi buttati, perché poi erano tutti buttati per terra. Io con i miei soci ci siamo cominciati a rotolare verso il mare per toccare un po' l'acqua, per un po' di refrigerio. Ci siamo incrociati con lo sguardo, gli faccio, adesso un gelato, voleva il gelato, ai 6. Alle 7:15 avevamo cenato alle 7:15. Io l'anno dopo ho portato un certificato falso, dico, c'ho il diabete, dico, proprio alle stelle, dico, non posso toccare niente, mi sono portato in sala da Roma, dico, io non posso toccare niente. Quindi in realtà queste situazioni speciali bisogna saperle anche vivere con meno drammaticità Però il senso è questo, fare delle cose insieme.